Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko, sono qui di nuovo in studio con Luca Viozzi per presentarvi il suo nuovo romanzo thriller Profluvio. Io sono Santoro Martina, sono qui con Luca Viozzi. Ciao Martina, ciao a te. Ti faccio la prima domanda appunto sul romanzo thriller. Ti chiedo perché scegliere proprio questo thriller e perché scegliere proprio Elena Russo come protagonista. Profluvio è un romanzo molto particolare perché vede la protagonista Elena Russo che si imbatte in fronte a un'alluvione, un temporale importante, la macchina sbuffa, si ferma vicino a una chiesa dove trova riparo, e all'interno di questa chiesa ci sono tre persone che anche loro che hanno trovato ristoro in questa chiesa, ma uno di queste tre in realtà è un assassino. Quindi piano piano si scopre questa cosa e Elena Russo dovrà capire chi dei tre è il mostro. E da dove nasce questa ispirazione per scrivere questo romanzo? Ci sono già altri romanzi che hai scritto di questo genere o è il tuo primo romanzo thriller? No, io sono al quarto thriller, al quarto romanzo, e il primo peraltro è andato molto bene, Delitto sotto le torri, tantissime le copie vendute, il libro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino. E questo è il mio nuovo romanzo ed è un romanzo a sé, nel senso che è una storia che nasce e finisce, e Elena Russo è una giovane matricola della facoltà di biologia che si trova di fronte a un caso, diciamo, molto più grande di lei e si imbatte in questo mostro, appunto. È un thriller anche abbastanza realistico perché si scopre che questo assassino in realtà ha ucciso una giovane ragazza che si trova all'interno di questa chiesa in un'ala particolare, e quindi più che fantasy lo definirei un noir realistico. Ok, quindi un romanzo molto, molto serrato, con molta suspense, sì. Giusto? Sì, che è un po' il mio modo di fare. Io non creo la paura o il terrore parlando del macabro delitto del sangue, ma lo faccio nascere piano piano attraverso le emozioni e i sentimenti dei protagonisti, in modo tale che il lettore si ritrova e si appassiona. Ok, e ci lasci dei contatti dove poter comprare questo libro o se farai appunto delle presentazioni dove poterti incontrare? Il libro è su tutti i canali online, Amazon, Mondadori, Feltrinelli, sul sito della Giacone Editore, che è il mio editore, e lo ringrazio tanto Simone che ha scommesso e ha avuto il coraggio di nuovo di proporre un nuovo mio thriller, e poi è nelle più importanti librerie marchigiane d'Italia.